Stiamo bene, siamo in Toscana in una piccola pausa del tour. Ok. Come in Toscana si sta bene? Come sta andando il tour? Sta andando benissimo, veramente non ce l'aspettavamo tutta questa bellezza, quindi sarà bene. State facendo anche tantissime date, se non sbaglio, e tra poco sarete qua a Bologna, noi il vi aspettiamo. Il 23 marzo noi vi aspettiamo qui al Locomotive, ma anche allo Showcase Art Rock Museum, ricordiamo ai nostri ascoltatori, il 14 marzo, giusto? Esatto, mentre aspettavo la vostra telefonata stavo studiando le canzoni al pianoforte, perché presentiamo Gogo Diva in una veste nuova con Veronica, visto che c'è la possibilità di suonare alcune canzoni al piano, quindi sono lì che studio. Quindi in realtà tu suoni la chitarra, ma non solo, sei super mega polistrumentista, non so come definirti, suoni sono tanti... uno di quei musicisti che suonano tante cose senza essersi mai specializzati in nulla. Quindi sono lì a studiare il piano proprio per mettermi al passo con quello che devo fare, insomma. Vabbè, molto bello, insomma, vi reinventate comunque ogni volta. E a proposito di reinventarvi, è uscito da pochi giorni il vostro nuovo singolo Maledetta Tenerezza. Non so, ci vuoi raccontare cosa significa per voi questo pezzo, cosa vuole comunicare? Ma allora è un brano a cui sono particolarmente affezionato, perché è uno di quelli che per tanti mesi durante la lavorazione del disco è rimasto chiuso dentro una cartella su un computer, per non dire chiuso dentro un cassetto, perché non ci convincevano alcune cose degli arrangiamenti, fino a quando poi una notte ero a Palermo e stavo lavorando per capire come chiudere il brano, e finalmente ho trovato poi alcune delle soluzioni che effettivamente poi sono andate nel disco, facendolo riascoltare l'indomani a Veronica, insomma al produttore con cui stavamo lavorando. Racconta fondamentalmente di quei momenti in cui ci si abbandona alla paura, anche se il brano è molto up come energia, racconta sicuramente delle storie d'amore che abbiamo passato, in qualche modo c'è un po' di me, un po' di Veronica qui e là. Quindi diciamo che è comunque una canzone che sicuramente vi rappresenta. Assolutamente sì, ma come un po' tutte quelle del disco. E a proposito di disco, Maledetta Tenerezza è infatti il vostro terzo estratto dall'album uscito a dicembre, Go Go Diva, giusto? Esatto. Dopo questo corpo e wow, che erano un po' per noi i primi due singoli rappresentavano un po' i confini di questo disco, perché sono il primo e l'ultimo brano nella playlist di Go Go Diva. Rappresentano due estremi in qualche modo, il lato carnale, materico, passionale di questo corpo, contrapposto in qualche modo alla parte più non so come dire, spirituale, più intellettuale, più di wow, dove c'è più il confronto con l'altro che l'esposizione di se stessi, ecco. È molto bella comunque anche a livello grafico pensare che le canzoni stanno una sopra e una totalmente sotto, e in mezzo comunque c'è tutto un album scritto e cantato. Ma guarda, in realtà è una cosa di cui ci siamo accorti dopo che il disco era già in un... dopo che già lo ascoltavamo da parecchio tempo prima che uscisse, ma già la playlist era definitiva, e riascoltandolo effettivamente abbiamo capito che il motivo per cui avevamo deciso di imporci quella scaletta lì era che c'era un flusso, c'era una narrazione che all'inizio non avevamo colto, ma ci eravamo semplicemente lasciati guidare dalle intuizioni, come spesso accade. Poi effettivamente da questo corpo a wow c'è tutto un filo narrativo, un racconto che passa dalla scoperta di sé, appunto dal corpo, dall'esporsi fino ad arrivare all'altro, che viene nominato in qualche modo soltanto alla fine del disco, l'oggetto dell'amore, l'oggetto della relazione. E questo progetto cambia diciamo dai vostri altri progetti precedenti, o ci sono comunque delle cose in comune? Sicuramente c'è un continuum tra Per la via di casa, Bubu Ted, forse più Bubu Sed, perché effettivamente per la verità raccoglie canzoni che avevamo scritto parecchio tempo prima che uscisse il disco, e quindi per un semplice motivo temporale, cronologico, Gogo Diva è più vicino a Bubu Sed. Sicuramente Gogo Diva è un disco che parla più di noi, perché in Bubu Sed avevamo cercato di raccogliere delle sensazioni di collettività, di raccontare veramente un noi, mentre qui quando abbiamo iniziato a scrivere Gogo Diva sapevamo che avevamo bisogno di esprimere qualcosa che rappresentasse in primo luogo noi due, me e Veronica, come individui nelle nostre storie, e che per fortuna, e questo poi lo abbiamo capito quando il disco è uscito e ai concerti, queste stesse storie, le nostre parole poi vengono accolte, rielaborate da altri. Diventano storie anche di altri, dici? Sì. Assolutamente. Noi volevamo chiederti un'altra cosa, abbiamo una curiosità, perché nella vostra bio vi definite, tu e Veronica, come la rappresentante di lista, come una queer pop band. Esatto. Ci puoi raccontare un po' perché avete scelto questa definizione e cosa significa per voi definirvi una queer pop band? Ma allora, sicuramente tutto è nato con la nostra prima collaborazione un po' di anni fa col Sicilia Queer Film Festival, che è un festival di cinema, diciamo, non esclusivamente a tematica LGBT, ma che si occupa di nuove visioni. Il direttore del festival, diciamo, appunto, ci aveva chiesto di aprire il festival, e da allora poi la nostra collaborazione è diventata assidua. In quel frangente ci eravamo interrogati sul termine queer, diciamo, andando a leggere alcune definizioni, togliendo, diciamo, tutto quello che era che erano i termini legati più alla politica sessuale, dei diritti, appunto, in termini di diciamo, appunto, di sessualità, e inserendo invece termini che riguardavano la musica, e quindi il fatto che si parlasse di individui oltre il genere, di una non necessità di definirsi, ci era piaciuto come non definizione di quello che facevamo, perché abbiamo sempre avuto difficoltà a capire se eravamo una band rock, prog, qualcuno ci definisse prog, all'inizio sicuramente avevamo delle venature folk. C'erano tante influenze, sì, nei vostri, esatto, album si è sentita anche l'evoluzione della vostra musica fortemente, tutte le influenze e che quindi, avete avuto. Esatto, e da lì, insomma, un po' così per giocando con le parole, come ci è sempre piaciuto fare, abbiamo deciso di acquisire questo termine e farlo diventare il nostro genere musicale. Bellissimo. Il nostro non genere musicale, che è bellissimo, perché comunque, esatto, è tutto comunque un gioco di parole, quindi è molto bello, secondo me è comunque un bellissimo messaggio. Io sono fissata, quando faccio interviste, a chiedere aneddoti particolari o sulla lavorazione del disco o comunque durante i live, se avete, non so, qualche aneddoto, qualcosa di strano, divertente che succede prima di salire sul palco o sul palco stesso. Ma guarda, io penso che, diciamo, tutto quello che per noi è normale fare, diciamo, prima di iniziare un concerto, se ci fosse una telecamera sarebbe comunque strano da vedere, perché l'altra volta leggevo, c'era un fotografo che è stato con noi in un backstage a Roma, giustamente descriveva quello che facciamo, che per noi poi è normale, cioè riscaldarsi, c'è chi fa salta la corda, c'è chi beve tisane, c'è chi fa dei gorgheggi o abbiamo degli esercizi che abbiamo rubato al teatro, che sono degli esercizi per riscaldare la voce e per scandire meglio le parole quando poi cantiamo, che è un esercizio divertente, perché si fa finta di, si inizia tutto facendo finta di mangiare una mela e quindi a un certo punto della preparazione potreste vedere dietro il palco noi che ci mettiamo in cerchio e prendiamo una finta mela dal giacchetto e iniziamo a masticarla. Questo penso sia una delle cose più strane che facciamo, poi ce ne saranno altre sicuramente, però questa, diciamo, che è notevole. Beh, questo anche perché ricordiamo che voi venite anche dal teatro, infatti avete anche spettacoli dove vi siete conosciuti, appunto, lavorando a uno spettacolo, se non ci ricordiamo male, giusto? Esatto. Siamo un po' stalker che conosciamo, sappiamo tutto. Anche perché l'abbiamo raccontato un sacco di volte, ma tuttora facciamo teatro, infatti adesso i primi di aprile saremo a Palermo per un lavoro in teatro. Veronica andrà nelle Marche la settimana prossima per fare uno spettacolo dopo essere stati a Bologna all'Art Rock Museum. Ancora il teatro, diciamo che riusciamo a liberarci dalla musica per continuare a calcare i palcoscenici. Perfetto, allora noi ricordiamo che vi aspettiamo giovedì. Questo giovedì ad Art Rock Museum. E poi ci sarà, diciamo, la vostra data vera e propria bolognese al Locomotive il 23. Poi ho visto che sarete comunque anche alla Latteria Molloi di Brescia, poi sarete a Ravenna, Firenze, Santa Maria, Vico, Arezzo e Genova. Quindi comunque un bel tour, quindi noi, non so, si può dire, vi auguriamo un buon tour? Non lo so, si può dire? Si può dire. Si può fare merda, nel teatro si dice merda. Esatto, merda. Tre volte, merda per il tour, esatto. Spero di riuscire a esserci, farò in modo comunque di esserci perché... Se no li troveremo a dei festival, sono sicura. Oggi noi stiamo facendo una puntata sui festival e quindi non so, magari è vero, vi ribecchiamo live comunque a un festival magari quest'estate o prossimamente. Sicuramente quest'estate saremo ancora in tour un po' in giro per tutto lo stivale.